E allora, visto che siamo in tema natalizio, siamo passati a un brano dei Van Dyke. Il brano è Do They Know It's Christmas? E non ridete del mio inglese, so che qualcuno ride. Bravo, sì, a mettere la musica, sei bravo veramente. Oh Maria. Si spegne e ci va la sola alla Zolanda. Con il telefono bianco sti parlando, adesso lo propongo con l'altro per metterlo in inglese. No, ho capito, cos'è l'applicatore? No, no, l'OG, quello con, come si chiama? Subwoofer. Quello è l'OG, quello rettangolare, cioè presente, quello si mette sotto il televisore. Ah, ho capito. Accendo, e no, e va per i fatti suoi. Mi segna le funzioni, perché adesso dopo provo a vedere con l'altro sistema per... Allora, accende o funziona? Accende, accende. Rimane, prima accendeva, andava direttamente in protezione, invece adesso accende, mi fa le funzioni, dopo 3-4 minuti si spegne. Però vabbè, non ho messo l'ingresso, forse magari me lo fa in automatico, perché non c'è segnale input, capito? E adesso dopo provo col cavetto, lo aggancio direttamente all'altro telefonino, perché quello bianco ho fatto la prova e lo fa la stessa cosa anche con le casse esterne, con... se ne va per i fatti su, adesso provo con l'altro telefonino a vedere se me lo pilota, se no mi tocca agganciare il televisore che c'ho dietro nel tavolo dall'altra parte e gli aggancio l'attacco esterno delle cuffie direttamente diretto. Forse ti vuoi fare così. Cava gaba, poi faccio così, vediamo un po'. Capito? Senti. Sono quelle casse del computer, insomma, mi ha agganciato il telefonino. Va bene, zocca. Zoccalo sì. Non è come quella specie di subwoof che... del coso, no? Della LG, no? C'ha quattro casse e poi gli puoi agganciare una cassa esterna, solo che gli hanno messo troppo input, gli hanno fatto esplodere, cazzo, quattro condensatori. Ancora non ho guardato il finale, ma mi sembra che il finale, siccome rimane congelato, mi sa che il finale fu tutto. Se rimane congelato, mettila a soffriggere, che si riscalda. Ah, l'avevo giù tu io. Detto se è il finale, detto, c'è poco detto da cambiare, detto, è un finale, detto... che non lo, cioè non è che lo, già si trova, il problema è saldarlo, perché c'è le saldature totalmente fini, quanto lunghe hai detto, e quindi io non te le faccio, ti dico così com'è, tu vai da un tecnico di quelli che ti fa il riparazione di tutte le cose, i telefonini te lo fai saldare, io ho detto. Forse è l'unica, ma smontala a vedere un po' se è buono, lo misuri. Cazzo smonti, se c'è più di 25 piedini, ma così. Perché? Cazzo, c'è 25 pericia, c'è la 10 da una parte, 10 dall'altra, e ti metti in fine, guarda, se ti mando una foto ti metti a ridere, ma così vuole stampata questa, c'è il dissipatore sopra, è una specie di microprocessore, capito? E poi c'è, monta un KIA, adesso domani cambio il KIA, che c'ha questo transistor, vediamo un pochettino, se è quello glielo cambio non c'è problema, se è l'altro invece si partore sono stacca in culo, se la biglia in culo, intanto per quello che ho speso se no in condensatori 1 euro. Ho capito, allora, ma vedo che sta andando però. No, non sta andando mica quello, no, sta andando le casse delle cose, le computer sto utilizzando. Col telefonino, capito? Bianco. Siccome ho preso il telefonino quello di USB, sto provando quello, l'ho pagato poco, poi mi sono pigliato il capanove l'altra volta e ce l'ho ancora da programmare, figurati tu. C'è una scatola, nuovo, comprato neanche 15 giorni fa, l'ho pagato 99 euro e 90 centesimi al Conad. Vabbè. Oh, vedi tu, se riesci a parlare. E adesso, dopo lo provo col televisore, voglio vedere se funziona. Se me lo si spegne, lo chiudo, meglio lo torno. Se vedo che va in protezione, perché mi scrive, dopo 3-4 minuti mi scrive che va in protezione, capito? Quindi, adesso, prima voglio cambiare quel KIA per sicurezza, una volta che cambio quello, vediamo se cambia la situazione. Ciucchi. Fate la canalizzazione delle rete 4, canale 5, Italia 1. Bucca. Ciucchi. Ci sarà la voglia. Stavo mandando un messaggio, siccome la TV del come si chiama, no, non li fa fare la scansione, non so, però la fa andare lì nel coso di fare la scansione, salta, allora bisogna entrare con il menu segreto, gli stavo mandando i comandi per entrare, per accedere al menu segreto, così può fare la scansione. C'è quella specie di cagata, adesso bisogna mettere E1, E2, E3, dopodiché direttamente metterci rete 4 HD, canale 5 HD, canale 1 HD, hai capito? Perché normali non li vedi solamente quelli in HD, gli altri li vedi o 104, 105, 106, oppure ti risulta 501, 502, 503, dipende dal televisore, quando fai la scansione adesso. Vedrai che adesso fra poco faranno anche la RAI, così metteranno la E1 HD, la E2 HD, la E3 HD, quindi stanno facendo apposta per cambiare il televisore. Ho capito. Vabbè, se non ce la fa già ci faccio un salto io. No, qua il soggiorno è a posto, ci alzava, ho fatto la scansione normale, si è risintonizzati i canali. No, io ho fatto tutti qua, tranne che la ricerca del coso della CAI. Vabbè, se la piglia in culo, devo in pratica spostarli, li ho trovati ma devo spostarli in automatico, come preferiti, capito? Ma non me ne frega niente, lo uso solo per andare in ospedale col televisore, capito? Perché è piccolino e va bene per farti compagnia, perché altro. Poi gli altri sono tutti in smart TV, l'ultimo l'ho comprato neanche un mese fa. Così sono a posto io, tu hai smart TV, ciò, e sono tranquillo, non devo stare a cambiare nulla, o a comprarmi le cose. L'ho preso a voi, 199 euro a Conad, è a posto. Lo so, invece quello di cucina no, quello di cucina no, aspetta un attimino che mi stavo telefonando. Ehi, ok. Che è? Ti ascolto basso. E ti trovavo la posizione, se no manco ti sento. Ehi! Ehi! bocca! E tasa. Che la. Possesso, un bellefone, non come il cabezone este che tiene una más che cabeza. No se dice cabeza, se dice almendra gorda. Se no con Milan. Trabajadora, y apañá. No voy a decir más cosas porque luego decir que si soy yo el que habla de ganado. Que no, yo no quiero decir esas cosas. Pero yo también tengo que cambiar, ¿eh? Ahora tengo el pelo mucho más largo y más gordita. Hace 6 años. Chucuchu. Ciao Antonè, ma cosa c'è? Un parrot spagnolo? A spagnolo, senti. E vaya che le pregunte all'Aguila Roja esos trucos che tiene tan chulo per caramelarla e esa historia. Deja lo truquito eso, che esa va a hacerlo muy bien. Ah, ma quello è zello, Antonè. No, es de lo cuesto. Bueno, Leandro, ¿otra vez has subido el camión? ¿Lo has tenido bastante? Ah, fa culo, que tome se vea. E tu la cosa, mi dici più talca. Ciao Marco. Come ti sento bene. Ciao a tutti, scusate se sono entrato così, facendo irruzione. Ciao Antonello, ciao Gianni, eravate in ruota? Vai. Io ho preso. Come mai l'altro giorno mi senti più GBC? Vai, cuo, mane. Sono da Bricoman che devo fare spese. Sono nel parcheggio. Ah, ecco perché arrivi così forte. Da Bricoman sì. Ehi, qua vedo tutta Sassari quasi. Infatti si affondo scala. Ciao Gianni, mi senti Gianni? Forte e chiaro. Sono in cucina, là. Perché prima non soggiorno, non è che... Ciao Marco. Marco già arriva a fondo scala, vabbè, lì a Pradanietta. Anda back. Ma tu lo sai cosa si vede di fronte al piccolo, si vede tutta stanza. Già lo so, giallo. Gava. Marco, quello che no, fesserie, rondelle, vittine, roba del genere. Vibratori. Vibratori, non lo so se ne hanno lì. Per muro. Siete là, vabbè, andate, dai. No, che io non ne ho baracchino. Qua, ok, dai. Buona serata, già, ci sentiamo. In quel senso, no, non porto baracchino assieme, tutte e due. Sennò comincia a complicarsi la cosa. Appunto perciò. Comunque sei col gommino? Diciamo di sì. E diciamo anche di no. Diciamo anche forse, dai. Ebbene, Lucarie, novità, sei sempre in zona Santa Maria? Per il momento sì. E sono tutta la sera a fare... No, in commissione no. Ho fatto un bel giro, ho fatto una Porto Torres, ho mangiato fuori, così mi sono pigliato caffè, ho mangiato al sacco, ho fatto un bel riporto, eccetera. Al sacco, la sacca ti hai portato? Quella non si può staccare, tu. La sacca delle ba. Ciao, vuoi bene, già. Ebbene, Antonio, non mi hai chiamato. Come stai, come non stai, eccetera. Già un giorno non ci beviamo mezzo bicchiere di birra. Quando vuoi, già sono a casa, ti ho detto, vado a passare. Vado poco fa, sono subito al CBTAC, capito? Canali spagnoli. E quindi stiamo ascoltando quelli. Civitalk, avevo sbagliato con Zello, dai. Comunque ci sono due ragazze di cosa mi a Sassari. Una al meno, l'altra è a coso, a Tutubella, che parlano sul canale 4 e 14 nazionale. Figurati. Almeno ci abbiamo due Saltec. C'era traffico in via Lamberto, porca miseria, perché hanno rifatto l'asfalto. E io l'ho visto, mi ha giocato a pelso Manzano, perché poi sono 25 da davanti a casa di Natalino. E mi ci stavo portando la veloce, appeso e sono sceso alla... a, come si chiama? Alla palestra bunker. Da lì me la sono fatta tutta a piedi, Ponte Rosello, via Lamberto, fino ad arrivare al... sono arrivato in via Levante, lui mi ha chiamato un amico e sono andato, ho aspettato a lui e poi mi sono salito a casa. Un casino era stamattina, questo cavolo di via Lamberto che stanno facendo da una parte, stanno tutto asfaltando sino a dopo Piazza Castello, figurati, mi sembra che arriva quasi in via Roma. Esatto, esatto, però il bello è che dopo sarà un biliardo via Lamberto, capito, bello liscio. Sì, sarà bello che lo piove, cazzo, che più di uno va a frenare e c'è dritto. Basta andare piano. Vai Gianni. Ai ai ai ai ai ai. Ciucchi ciu. Cazzo 29 sono. All'orario, cosa sono le? Sì, le 6 e 29. No, sono 29 tutti in un canale sono, hai capito? In Spagna 29 persone ci sono, tutti in un canale sono. Ehi, i spagnoli sono attivi, siamo 27, siamo in queste cose strane. Io adesso faccio caricare il telefono, insomma, si scarica, cazzo. C'è un telefono di che costa 68 euro, quello che ho preso da Rospi. Poi c'è l'altro che mi sono preso nuovo, il K9 della LG, ce l'ho ancora dentro la scatola. Figurati, non lo sto usando, ce lo fermo da una parte, di riserva. Un attimo che sono al telefono, dai. E gli affari con comodo. Luca, ci sei? Ripero. Luca! Antonello, ci sei? Sì, ci sono, dimmi tutto. Fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ehi, ok, dai, io sto scendendo, sto entrando al negozio, dai. Saluto Gianni, se ancora l'ascolto è Luca. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo, buona... buona passeggiata da Burri, com'è? Aspetta, prova, prova. Mi senti? Sì, che ti ascolto. Beh, c'è nessuno qua. Lucrezia, ci sei, cambio. Attenta, Lucrezia. Attenzione. Avanti. Hola, hola. Hola. Come on. Che bala. Ma non bisogna secondare. Ah. Non bisogna secondare. Ehi, certo. Cosa sta facendo? Ti ho mandato un messaggio nel telefono, leggilo. A chi hai mandato il messaggio? A te. E di cosa? Cosa c'è scritto? Leggilo. Che messaggio è? Per favore! Fra poco lo leggo allora, dai. Luca! Luca Gargamella! Ciao Gio Mari! Ciao Luca, buonasera! Di chi si è risvegliato lì? Che bello! Senti Gargamella, lo so! Non ho visto di sera! Sempre dormito, piada Edu! Per carità, sempre dormito, cazzo! Magna drommi, dai! Demmo bene, demmo! Aspetta che leggo il messaggio, Lu! Cagami! Aspetta, se lo leggo il messaggio! A Luca stavo dicendo! A favore! Luca, Gargamella, Vabbè, là. Santo, la chiamavo Gio Maria poco fa qua. Mi tu buon Luca, come che? accesa ancora, se vedi che si fa. Aspetta, questo per te. Un attacco. Non sei da già. Luca, l'hai guidato. È vero. Luca, Mario, Luca, Cecilia, Luca. Ah, solo la Zucchi. E memo è memo. Babbo. Solo. Rifalo. Ritiratesi. Che mai? Ma ritiratesi. Corri in Libia, E si battivando. Flippala. Illu. Si affoga. Cosa ho capito un tubo in quella... ma quello che costa? Quello che c'è sul telefono stamattina. Aspettami, mi dici al telefono, dai. Leggi bene e vedrai che te lo ricordi. Cosa leggi? L'hai compreso un accidente. Bobbo, a posto Eva domani, dalla 1 fino alle 5. E tu figlio della baracca, no? No, l'ombrellone bisognò la baracca. Famosi! Per carità! Via frustino, mi! A frustino! Tu vieni con la campagna, mi sa che domani ha messo più, oggi ha fatto bello, anche troppo caldo c'era. Ciao Tino! Miau, miau! È vero! Bella quella... quella 500 Abarth! Ah, bellina, la Cadillac, bella! No, la Porsche è bella, oh yeah, nulla, La gente più bella, buonasera a tutti! Andiamo, ciao To! Cazzo, andiamo bene, E noi raschiamo il fondo, cazzo, Sì, il fondo, il sottofondo e la platea buca. No, io sto raschiando gli spigoli, anzi gli angoli da un cilindro. Cazzo, tu mi dirai, non ne ha gli angoli, anche quelli sono schiatti. Non li trovo. Se non me li faccio. Se da attento a non pigliarli, mi. Mettore. Sì. Uia, buonasera. Andiamo vero, andiamo, un ghisso. Vieni a pigliare lo spigolo, mi. Con un capo, dimmi tutto. Non lo so, no. Sì, se ne si ne affura che si gosi. Ciao, Mari. Ore. Eia, cosa c'è, dimmi. Ma come senti, pensavo che mi ascoltavi meglio, Io ascolto a tutti quanti, sono gli altri che non ascoltano a me. Un info, ma per caso hai qualche nipotina alle elementari? Non ho sentito. Ma no, non so cosa hai detto, non ho capito. Ho detto un info, per caso hai una nipotina o un nipotino alle elementari? Sì, un nipote alle elementari c'ho, a Sant'Orsola. Allora già, mi sei sembrato tu, dai. Sono passato, ti ho visto qualche giorno fa. Dipende dove però. Dipende dove mi hai visto. Cioè alla scuola o ho posteggiato con la macchina? No, alla scuola, uscendo dalla scuola, invece via Giammaginto, così è. Sì, già. Chiappa. Vabbè, come hai fatto a riconoscermi? Io ti conosco dagli anni che furono. Perché la bambina ha detto Ellu. No, ti sei sbagliato, non ha detto Ellu, che mascio. Ha detto Ellu, e un attimo ha detto quello è il nipote di Tore. Oh. Allora fermate, ma in macchina eri? Vabbè, io anni fa, dai, ho conosciuto Monica, quindi. Pagì se mi conosce allora. La conosco la ragazzina. Andiamo, dai, vabbè. Andiamo bene, andiamo. Oh, Luca! Luca, ma in acqua entrando ci stai? Nella vasca! Nella vasca? Ma nella vasca non c'è nulla! Senta, se a te andai in gommone, gli anni bigliamo così di bescio, di seppie e di boipu. Babbo! Finirà che no. L'ha giudicato una di papo per provarlo. E boh, Ma che soldi non l'ha più pigliato? Adesso per io, polpi, seppi e to, uno scarrucciamento sotto costa. Quello sì, dammi il tempo che un giorno faccia bello, lo devo togliere il sabato, provare il motore, a metterlo in moto, a che sicuro vorrà pulito il carburatore anche, e metterlo in moto, e poi ci può uscire la domenica. Ti prendi la mia roulotte e tu mi dai il gommone, beh, te lo piatti lì sotto casa la roulotte, così quando vuoi andare al mare te ne vai. Ma in te sta cosa, non ho compreso nulla. Ma non sto facendo il radio. Sì, no, ma c'è la voce è troppo rauca e coso, e quanto è forte non riesco a capirti. Ah, è troppo forte la radio, boh. Ho detto, ti propongo una permuta, ti do una roulotte al posto del gommone, così quando vuoi andare al mare ce l'hai, no? Sì, andami la bongo la roulotte. Secondo il dirà là, se ti muovi la contravenzione, ti muovi. No, la mia no, perché è assicurata e tutto quanto. Ma il libretto è un rimorchio, quindi può stare come una macchina normale parcheggiata. Chi è che vuole cercare di sovramodulare? Avanti. Ah, perché gli parlate sopra, attore? Tanto non ci passate. Male gli viene. Se quando chi gli viene male. Andiamo. Non so dove andarmene con la roulotte io. Anche secondo in dirà si bosteggiata. Lo sto dicendo. Ti metto la contravenzione perché non puoi rimanere. Solo dentro a un campeggio la puoi tenere. Ma chi l'ha detto? Ma non è così che funziona. Tu dal momento che ce l'hai attaccata puoi andare dove ti pare e ti piace. L'importante è che non metti attrezzatura tipo tavolo, sedie, lì a fianco alla roulotte, sennò tu puoi andare dove vuoi. Poi la sera puoi apparecchiarti e fare quello che vuoi, capito? E Luca? Ma lo sai che qua è venuto quel tipo che si è comprato il terreno lì a Itti? A casa tua? È venuto a vederla, perché se la voleva comprare. Ho capito. E non gliel'hai dato? E diciamo che aveva, allora già l'hai visto, quindi, cioè, è una stazza al doppio di me, quindi in base alla sua grandezza la roulotte era in confronto era piccola, perché serviva le figlie e la famiglia, dai, quindi effettivamente in quattro è piccola, capito? Quella va bene per tre persone. Beh sì. Perché mai te la voleva mettere giù? Ha messo il camper però. Non ce l'ha più il camper, no. Ah, non ce l'ha più. Ma la roulotte. No, non ne ha più. Adesso è, come si dice, si sta allestendo quella zona lì con le roulotte. Il problema è che te la distruggono, capito? Questi di mezzi l'hanno arrivati, grogri l'hanno arrivati. Beh, non è un problema, se è recintato, se è frequentato, non è che purtroppo non è che puoi vivere lì, no, se no tanto vale che... È un casino per quello, o il primo inverno che la lasci te la distruggono, perché pensano che ci sia dentro chissà che cosa. Io perché alle mie li volevo fare gli sportelli, cioè le finestre in lamiera, per quel motivo lì. Ma intanto te la aprono lo stesso, è un casino, no? Fa della salute, Ghibi. Non lì, che devi portartela i primi mesi d'estate e poi a settembre, ottobre portare via tutto, hai capito? Ehi, attore, ma se tu la metti lì, ok, per l'estate, o te la agganci tutte le volte e te la porti via, perché il primo fine settimana che tu la lasci lì, è stato così, senza nessuno, stai tranquillo che entrano i curiosi dalle finestre e rompono tutto per prendere quello che c'è dentro, tranquillo, anche in estate non è che cambia niente. No, io me la porto d'estate, lì ci vivo quei tre mesi, ci sto e poi come vede, come cose che i ragazzi entrano a scuola, vigili vede ti buccio tutto, hai compreso che non lascio nulla. Così bisogna fare, siccome quelle lì erano fisse, capito? Sotto un blu plastico, senza ruote, fisse, capito? Come sono tutte le altre che sono lì, tutte fisse, non è che uno, che una famiglia la porta, poi se la porta, no, sono fisse lì, capito? Però era un macello, le hanno distrutte, capito? Io ne avevo due, fisse lì, le hanno distrutte. Tempo invernale, cosa ne fai lì? Buttata lì, No, infatti devi fare così, portarle lì dal mese di, da fine giugno inizia, e poi portarle via a metà settembre, prima del 15, le porti via. Certo, hai capito Lu, quindi non ci stava, già mai se non vi posso parlare la Ianna. Aspetta, cos'è? Vedo grosso era. Della piazzola che era in vendita, mi ha telefonato e subito abbiamo chiuso immediatamente. Noi pari a vero? Sì, vabbè, scusate che ho una bassa. Cosa c'è Gianmarì? Buonasera. Sera, buonasera signor Tore, ben sentito. Ma che dito facile c'hai? Perché ci ha sopramodulato. Oh, come ho mollato e attaccato. No, lo so io, ragazzi, ho solito, bisognerebbe le peste, Andai a muovere, e la Luca mi. Io ho sentito, bello, fai Parigi, detto. Avrai andato a sentire un fugo. No, era al telefono, vero, al telefono. Ehi, attore, metti a posto, io che usciamo un giorno, uno scarrocciamento, boh. Esatto, avevo una bassa. Ciao, E me, Gianmarì, buonasera. Come si fa? Ogni tanto già ci si bagna anche a noi. E ce la faccio, meglio così, dai. Luca! Ehi, stavo dicendo, attore, nel caso io vi porto da qua a scooter, se che rimaniamo a piedi. Non ve ne è bisogno Baghisu, la benzina c'è sempre, anche se ne metto 10 ce n'è anche a quantità, ti preoccupare, non sono mai rimasto a piedi. Non fa la benzina, no, fa il motore. No, guarda, proprio per il motore non sono mai rimasto a piedi, una volta solo che si è spostata la calamita del volano, ecco cosa, però mi hanno rimorchiato e mi hanno portato in porto. Per quello rimaniamo nel porto noi. No, è per quello, c'è un altro volano che già non si stacca, Nighi, se non ti preoccupare. Io che dobbiamo mangiare i polpi e seppie. Magari. Dai, già la vediamo qualche domenica che è buono, nel mese di febbraio, se non fa brutto. Ci organizziamo. E vediamo. Venga, avanti Tino, o Gianmaria, pur. Siamo qua, sto guardando un'antenna, una parabola enorme. Hai visto le foto che ho pubblicato, Lu? No, ho visto un paio di guanti. Quelle dell'Imbara. Ah, sì, le ho viste. Bella quell'antenna. Eia, di lusso. Freddo c'è però. Freschino. Gianmaria. Ti ho chiamato e non mi ha risposto là. Aspetta. Adesso provo di nuovo. Mi senti? Vi saluto. Fatevi accorto. Ciao. Ma andò via stai. Ma che entra un più bello. Ma devo uscire, detto, mi devo preparare. Perché tu devi portare il cane? No, è una pizzata che c'è in corso e devo andare. Sì, meglio così, dai. Allora, buona cena, ti do. Andiamo bene. Dai, facciamo così. Riprendi Gianmarì. Salve a mattino, Ciao, ti salto di casa, ciao. Grazie Gianmarì. Sarà fatto, ciao a tutti, ciao. Luca, aspetta, ogni tanto ti pari, Lu. Vedrà se fa cosa da va. Aspetta che proviamo a chiamare a signor Battisio. Attenzione signor Battisio. Chissà cosa fai, ne gatta, ma chi si è stasera? Stava la lampada del tutto, e c'era la piazza nel tutto, d'ora. Sassi, sarai zapparato, eh. Ah, ma se la fa rende, gatta, chissà che viene riscia. Ah, boh, non lo so, non saccio nulla. Vabbè. Sì, però, quello che so ogni tanto, da dire leva santa e si nanda, per carità, ragazzi. Non si può fare le pile della ragazzi, il subissino, ragazzi. Ah, Luca! E lui? Hai la miseria. Ma ogni tanto ti pari tu. Perché rispondo ai messaggi su WhatsApp, Gio Mari, capito? Ma che... Capito, c'è... Capito. Già, va bene, lui. E lui. Ah, c'è la batteria anche scarica, mi di questo. Vabbè, Tore, riprendi. Eia, anda via, anda. Ti sei carica nella batteria, te l'ho detto io, mettetela a caricare. No, ce n'è sempre un'altra di scorta. Ah, che dovrebbero durare un'ora, dovrebbero durare. Quando le carichi però. Ah, tu non le puoi caricare allora. Boh. Quando le carichi durano un'ora, quando poi ti dimentichi di mettere a caricare che ce l'hai a metà... andiamo, dai, vabbè, facciamo così. Io fra poco vendiamo polpi, seppie a 18 euro al chilo. Non dire niente a nessuno, non dire nulla, anche la volta che viene fa vedato così, non so, noi siamo tornati a biodo. È vero. Io non dico niente a nessuno quando devo andare. Ando e boh, non ne dico più in giro. Fai rasura a te, fai rasura. Lo voglio accontentare Luca. Lo voglio accontentare di bussarlo. E tu lui, non ti vai? Luca! Non si può sureggiare mai. Per carità, cazzo. Attento, signor Bacchisio, ma con Marino si sente stasera? Oh, vabbè, cacco, magari sono indaffarati, Marino! Marino deve essere con un nipote, prendere il bambinaio. Grazie, le fede fa, lui glielo dall'altra volta, le fede fa i subiazzari. Andiamo. Allora, ma isso che ha fatto, che ha consultato il cerampione, i subiazzari, va a fare un giro di rotondo con i nipoti. Anche se non vi sono rampioni non si vede, se andare giù. No, cazzate di tutto, tutto illuminato, Mi sembra un circolo questo, gatta, che i subiazzari. andiamo, dai. E meglio così. Luca! Passa. Allora su cantare. Attento, sono gigante. Ma comprendere tutto. Cosa bisogna fare con i saietti? Cosa vuoi ti dica? Vuoi dire che è troppo ghiaccio, Baedi? Ah, già. Vabbè. Ma se vuoi quasi non fare il bici, va. Ma c'era Luca del Monte pure, è parito, chissà tu. Luca? Mature. Luca del Monte. No, che era Inocchi, deve essere andato a mangiare un riso della pasta al forno. Ah, allora l'appoggio, Marina l'appoggio il piatto a Dalanzia, ma finalmente non ti foreggiano, non la figlie, due. andiamo. Gatta. Bisogna consigliare a pulire anche poco di orici in abbassa forno. Ma che fate già un mese in bagno, come ti ha fatto fare a Mario Ma una borsa. Che sei stato una ghisa in bagno, è stato da una pulla di vino, ci ha fatto con i vicini. È stato un mese a diarrea. Certo. Provocare oggi va via diarrea. Quasi mezzo che l'ha fatta quella voce, ragazzi. No, va via altro, va via che c'è cucchini, cazzo, a farli fare a rovino, poi ho distrutto due cucchini e perché poi di due l'ha rimbolso quattro e ha fatto un caffetto a Mario, cazzo, la moglie è un'idea in frequenza sempre, ma gli piace a dirlo che gli ha fatto il caffetto. Allora, già vedi con lui, Io chiudo, dai, ci sentiamo domani. Ah, sì, io che cazzo, ma un canale dei musici. Ciao, ci sentiamo domani, tu. Saluto Riccardo. Saluta Macchisio, si entra a Marino. Ehi, ciao Gian Marino. Ehi, meno male ci affacciate. Ciao, ciao, sto chiedendo. Ciao. Ah, Bacchi, arrivo di sì. Bello, signor Bacchi, buonasera. Mica c'è Gio Maria anche. Cos'hai detto che sta piovendo? No, mi sono allontanato un attimo perché stava squillando il telefono, non ho avuto tempo di avvisarlo. E vabbè, lo saluto. Stammi bene, Gio Maria. To chiudo, vai, ci sentiamo domani, addio a voi. Ciao, ciao Bacchi, buon proseguimento. Ciao anche a Luca. Ok, ci sentiamo, Gio Maria, alle prossime. Riprendi Bacchi. Chissà che Luca si è allontanato. Andava. E allora, cosa avevamo combinato, Bacchi? Scatta. Fatta, vedi. Oh, è meglio così. Meglio così. Allora se lo usare a piazzenne. Allora si accesura la graviglia. Andiamo, andiamo, dai, dai. Aspetta che Antonio ne scendo, Luca ne scendo. Attenzione, Luca. Sì, attenzione, attenzione. Attenzione ai carichi sporgenti, attenzione. Sì, penso a Barondoio, carico sporgente. Andiamo, andiamo, dai, dai. Cosa è andato a mangiare io l'urlo sulla pasta al forno? No, pasta al forno l'ho mangiata l'altro giorno, buona ma buona veramente, invece di metterci prosciutto ho messo la salsiccia. Aia, è ancora più pesante l'hai fatta, andiamo, andiamo, bobo. Riprenda, signor Bacchi. Buonasera, c'è un Bacchisio anche lì. E allora, tutto bene, sì. Oggi è nato, sì, in campagna. E infatti, la chiusura inizia a dirti avviati. Io alle 5 ho portato il cane, ma ha giovato lui romano. Ha giovato. E poi sono rientrato. Ehi, qua adesso c'è... Attenzione, Marino! Tu sarà in Antara Graviglia. Mi ha dormito, La chiesa ti ascolto male, sei molto bassi a livello proprio... e ti posi quel reme, avanti da chi? Me l'ho provata, va benissimo, da chi è giusta giusta, va ottimo, la misura è giusta giusta, ideale. Ti stavo dicendo che ti ascolto molto basso e ti posi a presso molto quel reme, da chi? Ho già detto, non ho capito. Sicuramente la sua stata è proprio, si porta un cuscio con molto quel rem. Bene, Veda, e Luca ha mangiato la pasta al forno, l'ha fatta ancora più pesante, così almeno aumenta la pancetta. Avanti, Tony. Ok, avanti, Tricino. Tutto a posto, sì? Sì. è tutto a posto. Andiamo dove andiamo. Dabu. È stato un capolavoro, va chiuso, neanche tre immagini tu. Sì, già me l'ha detto. Dammi la di tu. Perché c'è Luca anche. E lo so, ma sapevo che stava mangiando una pasta in forno. Luca, buonasera, avanti. Ciao Marino, mi ascolti? E Luca, fino a un punto non ti ascolto, ho capito solo, ciao Marino, e ti sei bloccato. Punta verso Graziano e Graziano ti fa da ripetitore, dai. Mi senti adesso Marino? Ma vanno. Guarda, come segnale forse, ma modulazione zero. Mi senti adesso? 1, 2, 3, prova. Ti sento come a Bacchisio, volta QRM e la modulazione bassa. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Adesso è migliorato, dai. Dai, Fiorellino, fai come torre, su che andiamo. Purtroppo, se mi fa, tira la continuità, io ce l'ho dritta l'antenna, è dentro casa. Oh Luca, tu sai che io sono un ragazzo quasi per bene, non ti posso rispondere, perché magari avrai la signorina vicino, ma, cioè, hai capito, Torre l'ha detto, che lui ce l'ha dritta. Ma l'antenna, vi. Non lo so io, a fare questo, sono davanti. No, perché tu c'hai la direttiva, avanti Torre. E noi ce l'abbiamo in verticale, ce l'abbiamo, dove era orizzontale. Adesso ce l'ho dritta, tu ce l'hai dritta o stessa l'antenna? Non si dice dritta, si dice verticale, e lui ce l'ha in orizzontale, ce l'ha. Ho dritta, boh, non ci compriso, avanti Bacchi. Vedete che è andato a Ciambarugavo. Così è Mari. Ma so io, no, in casa sto, non so nulla io. Io sono un ragazzo quasi per bene, che lo sai. Vero Luca? Luca si sta spostando. E allora a tutto, sta bene. Ti sta facendo le Bacchisio, nulla di fare il Fabio a Bacchisio. Oh, neanche vicino. Ha fatto un capolavoro meglio del Fabio. Ma se uno già sa da bene, sarà capo meglio del Fabio, sì. Sì, sì, ottimo, ottimo, ottimo. Ha fatto un paio di salature perfette. Perfette, avanti. E meglio così, manco di dura di più, puro di dura. Sì, adesso guarda, adesso ne abbiamo una da 1,30 m per un quasi, prima era 1 m, l'abbiamo fatta 80 come graticola nelle basi. Questa qui era 85, l'abbiamo fatta 80 perché sennò era 82, diciamo, dai, per 50, già va bene, dai. E adesso come va? Adesso va Chiesio, sì, a fianco a me. Ottimo, avanti. Oh, meno male, qualcuno dice che riesce bene. Avanti, Tore, riprenditela. Ascolta, ma chi, chiedo scusa, Tore. Tu come ce l'hai, orizzontale o lineare? No, in verticale adesso solo. Va bene, va benissimo, avanti, Tore. Che ci volete? Sorte. Ti ha risposto bene Marchisio, hai visto l'hai? Ma cosa pensavi? Cosa ti dicia? Visto l'hai? Andiamo bene, andiamo. Vero signor Bacchi? È sicuro, sicuro Tore, sicuro. Vediamo se Rosmarino è andato da Pomponio. È andato, sì, Tore, cosa Rosmarino? No, stasera no, no, stamattina sono salito a fare una commissione e sono salito. Ma dire, guarda che Bacchisio è attento, Mittorio, non è come te, no. Scusa, Bacchisio è attento, e ce l'ha come ce l'ha. Dimmi, Bacchisio. È così. E che ha chiesto lei se aveva saldato? No, non ha chiesto un cavolo. No, nulla, Bacchisio, ho fatto una cosa veloce, mi sono andato via perché te l'ho detto che a casa, giù in campagna oggi, eravamo senza luce, eravamo nel verticato, dovevi lasciare la chiave del cancello a mia figlia. E mi è migliore resistere a me per aprire il cancello, per bisogno di casa, di sbloccare le ante, capito? Dunque ho fatto veloce, ho fatto. Ah, ho lasciato la cosa, le ante non sbloccate, non ho sbloccato le braccia, dai, erano bloccate. Ma è stato dimenticato, cosa fa il Tore? Tore mi fa, mi fa morire, Tore, io non lo so. Peggio di lui sto diventando, avanti Tore. Peggio di me, io non so cosa mi è morato, come ti sei diventato nei dummi. Quello bello. Cerca di, invece di, a pensare a nuda. Che se prendi la cosa, non devi pensare nulla, devi pensare che se gli sei venne, e boh. Te è davvero bacchì. È sicuro, Tore, è sicuro, hai ragione, ca. Il marino in questo periodo è tutto fuori linea, disallineato. Lo sai perché, Tò? Hai il coglio perché non è così disattento. Perché sta pensando sempre alla graticola, domani che hai cosa vuoi pongo? Gambaroni o bistecche e cavallo a dondolo? Vabbè, bistecche e cavallo a dondolo, bacchì. E ci vuole un po' l'appetito, appetito già c'è, sì. Appetito ci vuole, a digerirli sono un poco pesanti. Piano piano, bacchì, piano piano, una volta mangiato, ci mettiamo a tutta, siamo a tennis. E ci facciamo un giro, una bella corsetta in zona, ci facciamo, dai. No. Ti prendi la scopa e ti fanno una scopata tutta la via lì. E già basta la mattina, sto bacchì. Tu sai quanto me ne faccio la mattina, tu neanche te immagini. Quanti chilometri? Me ne faccio parecchio, me ne faccio, vero sto? E sai come ti sono montato dai bei nocchi? A montaggio a montaggi, è sempre lì vicino a un negozio. Che non farà giosso da noi, entra con la moto, si fa zerugliere e si innanda. E compresi, se tu vedi la montezza che viene la piazza, t'asciusci. Tu fai l'uomo verde e chiami. Scusa se mi è arrivato un messaggio, vediamo chi è. Massaggiando lo stanno a Marino Mitone. Sì, lo stanno massaggiando. andiamo. Ecco preso bacchi. Come da ora che fai i nocchi? Si fa sentire che non farà i nocchi. Entra con la moto, si fa zero giro e si innanda, si rabbaglia. Noi che ci buono a montanno a cogliere la montezza, no? Non da da fa. Penso che è un bel brutto, a pisciare il piede e si innanda. No, i nocchi si ne un altro, ma non vuoi più. Un altro giovanotto, ma in gamba, proprio le vie pulite, non si sono mai visti così. L'ho mandato io, Bacchi, l'ho mandato io, ti ho detto fai via Magellano, lucida, se no l'amico mio mi fa pezzi. Sei chiuso, sì? Ha fatto bene, almeno sei in ordine, ca. No, sei bravo, ho visto molto laborioso. Non lascia niente in giro, tutto quanto, su cosa, ma quei volantini, mamma mia, che ben farò vattene. Ne piena un sacco, ne piena. I volantini, non c'è da fare, c'è lo storico. Le metto nel portone, no? Chi deve uscire dal portone, prende e butta fuori i carrelli, poi si lamentano. Quella mattina c'era uno che i volantini l'ho raccolti e vedevo, stavo a porre il portone e buttavo fuori. Prendevo io e glielo infilavo per 3-4 volte. A un certo punto ha perso il portone, ah lei, e no, io sono, allora. Perché non se lo mangia il volantino, pure ho avuto la montezza invece ho buttato la strada. E poi lei la prima che si lamenta, avanti tu. Sì, certo. Sono mangiato la giaudo dalla traversa della via vicino a un negozio. Ed era pure nei tivi. Mi sono avvicinato alla città, ma quando scendi giù nella piazza, di qua giù, ecco, invece di entrare con la moto e... Guarda se riesci a dare una spazzata invece di fare il giro e andare via, così non ti piace quella zona lì. Dai, ma di tu, troppa mondezza c'è, e mo vol fatto, prima o poi vol fatto, quando manda la spazzatrice, ma di tu. Giusto, e chi è sicuramente una nuova, una stagionale sicuramente, tu. Di quelle stagionali, allora. Agi tu, se vuoi durare, da qua devi lavorare. Anche se continui così, la prima cosa che ti fanno, ti fanno le fotografie e ti dicono arrivederci. Prossimo viaggio, avanti, Bacchi. Ehi. Non devono essere così. Sono pagati per lavorare e devono fare il loro dovere. Non dico ammazzarsi uno, ma un po' oggi, un po' domani riesce a tenere la pulita la via. Invece no, la scopa sulle spalle e io andemmo. Ma chi è un gioco, guarda, è un gioco quel lavoro. Tore già lo sa, se uno si prende l'impegno, non è per vantarmi, guarda, la mia è grande. Perché se ti dico le vie ti mette mai in testa. Io molte volte alle 9 ho terminato, alle 9. Dopo le 9 mi tocca girare, gira a vuoto. controllando per fare orario. E quando manco io non riesco a farti a terminare la metà, neanche la metà. E vuol dire che tu sei più veloce e lui si apprende più al rilento. Va piano lui. Ma io ho il mio ritmo, bacchino, ho il mio ritmo. Io cammino prima, la mattina cammino. E io dopo le 7:30 c'ho poca roba da fare, capito? Dopo le 7:30 mi devo fare solo via rotonda, un paio di zone, un paio di vie e basta. E dopo rimango in giro, capito? Poi rimango più al parco locale, se mai mi chiama qualcuno dell'ufficio e basta. Ma ti devi muovere, il lavoro non è pesante, è anche leggero. Pesante era una volta, uno, anni e anni fa, ma non adesso. Oggi avevo tutto e si lamenta, e boh, avanti do. Ma una cosa, ma che c'è che verano, che tu va sottino? L'alcolizzato, ancora beh, o in maradia? Ma che stai dicendo, lì non c'è? Sì, in maradia. E allora, è malattia. Lui in un anno, 12 mesi, ne lavora 3 mesi. Tutto l'altro è malattia. Ehi, e sta aspettando la roba, non so cosa avevano trovato qui, cosa avevano trovato e in attesa, comunque è malattia. Pensi no che a risette di manzano era con la pulla della birra, pensa un poco. Quello lì è per mettersi in moto, capito? Quello scalda, una volta lo scalda lavora, capito? Sì, domani travaglia, chissù, uia, fine minnira. Sì, chissù, lavorava, chissà se rientra pure, avanti va chi? Quello lì beve la mattina alle 5 per raffreddare il motore, perché se non mette il carburante dentro il motore non cammina, dunque bisogna mettere il carburante e tenere raffreddato, capito? No, adesso le turbine devono tornare ai vecchi tempi degli anni 50, 60, con un sacco a coddo. E alzare le battamenti a 3-4 piani, ah ma come va, tanto su giù addosso, per carità, oggi abbiamo tutto, ma chi è si lamenta, non ha capito, però al 15, se il 15 non c'è il bonifico, facciamo sciopero. Sciopero? Tore, sciopero lo fai anche tu, Sì, sì, sì, anche io faccio sciopero. Sciopero di cosa, la fame? Sciopero? È una cosa con l'altra. Ormai ho già finito di fare sciopero, l'unica cosa che devo fare è che andando a votare, che non voto più a nessuno, non vado manco più a votare, non vado. Adesso quasi va a sprecare energia andare a votare, ormai. Ormai c'è vecchio attorno, non c'è andare. E adesso mi hanno dato la moto, no, la 50. Adesso mi danno la 25 e la carriola. Magari, a manco camminare più, cammina. Dove l'hai vista la bicicletta a gas? Eh? La bicicletta con i due contenitori? A gas. Ma ci metto un burro dei motocarri nuovi. Mi sono andato a buttare tipo che arriva a pensione. Come Luca? Chi aveva la pensione? Tu? Ho detto che se il settore non va a votare, ne devono la pensione. Luca, siamo disposti? Non ti capisco, non so dove andare va. Cosa hai, dottore Luca? Ha detto, se non vado a votare me ne tolgono la pensione. Che vi bruviani? La pensione non si tocca. 2000 euro al mese non si tocca, Luca, non hai capito? 2000 euro? Insomma, ti sei avvicinato. E sono 2000 euro lavorate, sudate, ha capigliato freddo, tutto quanto ha pigliato, vero dottore divino, che non lo sai. Infatti, freddo, neve, eva, di tutto vera, vento, grandine, che si hanno aggiubigliato. Toppi addosso, gli ha tanto, che hanno la sfogazione, divino, dottore, che non vi credi. E la scagliata ogni tanto, innanto. No, è pure la biglietta della grucca, no, ha abbigliato tutto, pure lui c'è della grucca. Tutto, ma chi? Tutto appigliato, dove? Tutto quanto? Si sta il suo negro appigliato. E ti posso dire che di gozo, di travagliare tutta la di mangiare e se la recuperare sotto la neve, burro. Ma la gente non vi crede, c'è un peso, la gente non ci crede, ma fatto un affare, divino, libido 2000 euro, ma già sono sudato intanto, divino. Infatti, sono sudati, sì, certo ci sono sudati. Oh, Bacchia, un collega un giorno sta facendo il cassone, e dal cassone c'è un topo, è entrato dentro il golfo, là tutto quanto graffiato, tutto quanto molto male, ma come è andato a portare la cosa, è arrivato subito lo, la montura e tutto quanto l'ha arrivato. Male, male va, no. E tu invece non, queste cose non le sono capitate. E ha sempre attento. Sì, anche a Tore, uno o due già l'ha visto Tore, a te per prima. Da parete vi sono i cassoni. Il cassone noi, ci sono dei tappi sotto per l'acqua, no? E quei tappi si tolgono, se no rimane il cassone pesante per l'acqua. E chi più solo entra sotto e magna, in della mondezza lo sa, lo so di guanda. E con la sola vedi il cassone, il topo si va sollevato e ti salta addosso, capito? Avanti dopo. Poi il topo non mi è mai saltato addosso, però sotto i gascioni sì. Il gatto mi è saltato addosso. Ma com'è che non mi ha fatto nulla? Oh Giulia, beh ragazzi, siccome a me mi stanno chiamando, ci sentiamo per domani, se tutto va bene. Ok, ciao ragazzi, statemi bene, buona cena e tutto. Ok, ciao Marino, ciao Bacchisio e ciao Luca. Ci sentiamo alle prossime. Ok, ciao, sto ben sentito, sono tu in casa. Domani, se concili, avanti va chi? Chi sia gigante? Ehi, dimmi Marì. Che Tore se stanno via, eh? Io lo stavo salutando e mi ha chiamato. Ciao Tore, buona serata, a domani. Se tutto concilia ce la chiacchieriamo ancora. Bye bye. Avanti Marì. Vediamo se c'è ancora Luca, così dai salutatore. Luca, avanti. Ehi, ciao Tore, ciao Marino, ciao Battiso, anch'io chiudo che sto cenando, là. A domani. Ciao, buonanotte, buonanotte e buona cena, ciao. Ah Luca, ben sentito, buonanotte anche per te, buona cena. Ciao tu in casa, avanti Bacchisio. E io salutiamo Luca, ciao Luca, buona serata, buona cena, buon tutto, buon rientro a casa. A domani che ce la sentiamo ancora. Bene Marino, anch'io ne approfitto perché anche per me è arrivata quell'ora, Ickis. Ciao Marie, buona serata, buona cena, buon lavoro domani, se tutto va bene ce la vediamo, ce la sentiamo. Bye bye. Ok, ciao Marie, a domani se tu ci sarà, se qua ci siamo. Ciao ciao, non ce la chiudo, faccio, chiudo anch'io, dai. Ciao a tutti, tutti gli ascoltoni e QRT per me, dai, ciao a tutti. Ciao Marino, ciao. Marino, buonasera. Buonasera, vai su Facebook che ho pubblicato quell'apparato, c'è anche scritto il prezzo. Vai su Facebook dove, vabbè, già lo sai, dove sono io. L'ho pubblicato adesso. Allora adesso su Facebook, su WhatsApp non l'hai messo? No, su Facebook, WhatsApp non ce l'ho, non metto tuo, quindi vai direttamente su Facebook. Guarda il Vitale Antonello, già lo sai. E togli subito l'apparato. Se non ce l'ho collegato al cellulare il Facebook, capito? Me l'avevo staccato. Mandiamo se ce la faccio WhatsApp. Come ho trovato io l'apparato. Non ce l'ho io, non ce l'ho io sul cellulare, capito? Ma non ci sei tu, capito, su WhatsApp dove, con quel telefonino nuovo che ho io. Quello è il problema. Comunque viene 608,60 centesimi. 5% di sconto. È un KN990, 15 watt, da 01 a 30 MHz, tutte le modalità, FM, semplice WDP. Ma cosa, scusa? 608,60 euro, meno 5% di sconto, quindi 400 qualcosa, va? Ho capito, se non ce la fanno, ma mandiamo su Facebook, sulle cose, va? Io va bene, va. Va bene, appoggiamo, fai vedere sul coso tuo, fai vedere. No, non ce l'ho Facebook, mi sono staccato, sinceramente, mentre mi stavo rompendo lo scatto, ho avuto dei problemi, mi sono staccato. Oh, basta, è un casotto. C'ho solo WhatsApp e basta, in questo momento qua. Oh, Ioia, andiamo vai, andiamo, vedi a dove, così è Antonio. Allora, Gaieste. Andiamo, vai, andiamo, Bobo. No, io via. So, questi qua li voglio in contanti, capito? Contanti, un casotto. Io, vabbè, per quello che costa 400 passa io, si può anche prendere. Poi c'è il coupon, in pratica c'è lo sconto. A voglia. Lo so, e vabbè, già ci mettiamo d'accordo, mi dai il tuo, mi dai per prima, va. Piano piano, ci mettiamo d'accordo, dai. Con calma ne parliamo. Sì, quando mi tiro il gatto e vinci, mi compro quello nuovo e vendo il vecchio. Domani vado a grattare, vado. Io vado al Trisbar dove si vendono i gatti e vinci fortunati, oppure qua sotto me, quelli da 2 euro, quelli blu. Te lo auguro a grattare a uscire un bel po' di soldi, te lo auguro, Antonello, te lo auguro con cuore, magari. Tranquillo, se fosse stato fortunato a 100 milioni di euro, avrei... Prima di tutto vado a fanculo l'Inps, prima cosa. Come se ne comprato 3 o 4 appartamenti in qualche palazzina nuova, l'avrei affittati, hai capito? E avrei vissuto in vendita, sarò la biada in culo, finché campo. Mi sarei comprato un po' di roba, nuova, e mi sarei divertito a usarla, a parte la macchinetta, mi. E oggi non è, si sa solo come investire, capito? Oggi devono investire, fai appartamenti e affitti e ciccia, hai capito? Lì, ascolta questo, ascolta. E questo è lontano, è un bel lontano. Figurati, propagazione c'è allora. Come già detto, Sai, oioia. Oia, un casotto, non ve ne dai vanno. Noi, ma noi, no, i soldi vanno a chi c'ha i soldi, l'hai compreso? È sempre stato così, i soldi vanno a chi c'ha i soldi. I ricchi se diventano ancora più ricchi, i poveri diventano ancora più poveri, il discorso è quello. Capito? E bisogna stare attenti quando c'hai i soldi e cominciano a girarti le balle le donne, capito? Se le vengono lì, e beh, Antonè, libero sì, macchina c'hai, ce l'hai da casa. Pronto sono mia a venire, non c'è problema, facciamo quello che vuoi, interessami qualche cosa e siamo a posto. Così è, si può essere farà la situazione però io. Aioia. E comunque per quello col tuo ci possiamo mettere d'accordo, non c'è problema. Tu figurati che se su dove va Giuseppe mi. C'è, sai quante ragazze ci sono lì che stanno cercando uno che le possa campare? E ho detto Giuseppe, proprio in quel posto sei andato, gli ho detto, devi pagare per dargli per mandargli i baci, i cuori, in più gli ho detto i fiori. E ho detto, a parte ho detto... E quando lo incontri gli ho detto, ma cosa che ti chiede se c'è la macchina, se c'è l'appartamento, gli ho detto, se non sei fottuto ti ci manda a fanculo, gli ho detto. Sì, se non c'è nulla, guai. Prima ti controlla se c'è conto in banca, se no sono venuta se si manda anche in suo paese, l'hanno preso. Non è vero quello, non è balla no, cazzo. Sì, adesso la prassi delle sassarese è quello che... Se c'hai, la prima cosa che ti chiedono è vieni a vivere con me, non c'è problema, tanto ne molla la tua fidanzata, qua e là, cosa te ne fai, eccetera, eccetera, vieni a vivere con me. E credo perché c'è la casa, c'è la macchina, c'è per dire il conto in banca, eccetera, eccetera. Tanto per campare, hai capito? Una volta finiti i soldi fanno come l'ha fatta Giampiero dove era lì ricoverato. Alle migliaia te l'hai mandato. E fanno così, fanno, poi sono quelli dell'est, fanno così, fanno, ti sfruttano fino a quando sono venuti e ti mandano. Io ne conosco una, diciamo, che è una di fuori, lo stesso. C'ha 5 appartamenti più 4 magazzini. Fatti così, mi accattura le persone e poi convince a intestarsi la roba, poi muore e si vede la sottoletta, non preso altro. Già lo so che fanno così, già lo so. Lo so da parecchio tempo fa, io ho conosciuto un tipo dove gli ho fatto un lavoro, che questa qui, è capito, quando non gli vado da soldi lui, lui andava, diceva guarda, sanno che voglio fare l'amore con te, lei diceva no, c'ho mal di testa, c'ho quello, c'ho quell'altro, non gli dava nulla, non c'era niente da fare, gli dava i soldi, immediatamente prendeva e glielo mollava, hai capito? Perché voleva i soldi per andare a farsi la spesa, a comprarsi le cose sue, a starsi in giro, hai capito? Ecco, al solito, sono fatte apposta, sono scelte apposta e sono nato solo a fare quel lavoro e boh, non c'è nulla da fare. Tutti puoi salire e scendere, roba seria ce ne sono pochi, non vedo dove vanno. L'unica serie che ci sono le brasiliane, quelle non vogliono niente, non gliene fotte nulla, l'importante è che li vuoi bene, se c'è soldi o no, non è che gliene fotti molto, sono le uniche persone che non ti mettono le corna, hai capito? Perché io le brasiliane le ho conosciute tanto tempo fa, e sono molto ospitali e se ti vogliono bene non frega niente se non vai di là. L'importante è che li tratti bene, capito? Lo so, e sono anche molto bravo a fare karaoke, sono molto bravi anche. Lo so, a me quando ce l'avevo nel palazzo mio, le ho conosciute, mi invitavano tutti i giorni a mangiare lì, figurati, vieni Antonè, siccome loro mangiano roba piccante, già lo sai, piccante, aglio e tutta quella roba lì. Mi invitavano sempre, beviamo la birra, beviamo il vino, eccetera, eccetera. Sempre in festa, non le fregava un cazzo. Hai capito? Allora andavo e prendevo la birra anch'io, per dire, non andavo senza niente. Però mi passavo belle giornate, la verità, E cucinavo io, mi divertivo parecchio, mi divertivo. Poi, vabbè, da quando sono venuto qua a abitare non le ho più viste, quindi non so che fine abbiamo fatto. Ma prima c'avevo un bel giro di... ne conoscevo almeno una 15-20 di quella lì. Ti facevo la lui e mi pagavano pure bene. Non mi fregava nulla a me di fare il sesso. Dico, no, e tu lavoro, ho detto. Il sesso, ho detto, se vuoi farlo con me, ho detto, perché mi... ci divertiamo, è un discorso diverso, però il lavoro, gli ho detto. Antonio, mi stai chiamando nel porto, forse è pronto la cena. Ok, ciao Antonio, grazie, a domani, se coincide, grazie, sono in casa, ciao. Ok, ciao, ci sentiamo domani. Sono in casa anche a te.